A chi è davvero interessato ad agitare innanzi agli occhi del popolo il pericolo rosso, il regista Franco Zeffirelli torna utilissimo. Basta dargli la parola e qualsiasi sia l'argomento, prima o poi sgancia il suo obolo a chi rappresenta il suo benessere così ben mascherato di raffinatezza e cultura, diciamo così. L'intervista di questi giorni è tutta dedicata a dimostrare che nel nostro paese, oggi come ieri, opererebbe diuturnamente una sorta di cupola comunista, in grazia della quale tutto ciò che lui fa, film, spettacoli teatrali, libri, verrebbe o censurato o sminuito vergognosamente. Per difendersene lui e per difendercene noi tutti, pavidi e tapini, Zeffirelli indugia sul caso paradigmatico di Luchino Visconti, regista e comunista, più in quanto comunista che in quanto regista. Sì, perché era lì lui Zeffirelli, allorché Visconti licenziò in tronco un cameriere ed una cameriera rei di essersi dimenticati di pettinare i suoi gatti persiani. Era lì ancora lui, allorché nella misera Sicilia del 1947, mentre si girava la terra trema, Visconti si permetteva il lusso di farsi due bagni caldi al giorno nell'acqua profumata con essenza di Penaligon. Non oso pensare di che profumo si tratti, ma dal nome mi dice niente di buono. Non era lì sempre lui, perché allorché Visconti, ecco, la sera, quando decideva di cenare a letto servito dal maggiordomo, non era lì perché Visconti, che almeno in questo evidenziò una certa perspicacia, lo aveva pregato di togliersi dai piedi. Tutte cose che lui Zeffirelli approva, ben inteso, approva e ci tiene a dirlo, ma che a suo modo di vedere costituiscono un caso di doppiezza morale che dalla persona si estende da Chito alla dottrina politica che questa persona dice di professare. Zeffirelli racconta queste cose nei giardini della sua villa romana sull'Appia, circondato dai suoi 7 cani ben pettinati da una servitù che tenacemente lotta per non seguire il destino della servitù di Visconti, giardini in cui fa bella mostra di sé la statua di un cane, dono del comunista Visconti all'amato assistente di un tempo. Casi di doppiezza morale attribuiti a comunisti fanno capolino anche nell'ampio studio che Anna Tonelli dedica alla storia dell'educazione e dei sentimenti nell'Italia contemporanea in quel suo recente libro che si intitola Politica e Amore. Fra il tanto d'altro, un tanto che comprende la formazione di una morale, degli atteggiamenti amorosi ad opera di potenti agenzie ideologiche come l'Azione Cattolica, le gerarchie ecclesiastiche, il Partito Comunista Italiano, il Partito Socialista Italiano, vi si narra, fra questo tanto d'altro, di quanto sia tornata utile la Repubblica di San Marino in certi perigliosi frangenti per chi, volendosi liberare di un matrimonio andato a male, non poteva avere la faccia tosta di rivolgersi alla Sacra Rota. Dal 1939 i tribunali di San Marino potevano infatti emettere sentenze di annullamento di matrimonio valide anche in Italia. Nel 1946, su pressione del Vaticano, De Gasperi giunse ad un accordo che prevedeva la residenza in San Marino delle parti interessate, ma diciamo la verità, per chi aveva soldi e amicizie importanti va da sé che la norma era facilmente aggirabile. Ne approfittarono in tanti attori, scrittori, artisti e uomini politici. fra questi ultimi, dando vita ad uno scandalo grave anche e soprattutto all'interno del Partito Comunista Italiano, ci fu Luigi Longo, che più tardi, morto Togliatti, dal 64 al 70 del partito divenne segretario politico. Da un trafiletto nel Corriere della Sera del 15 novembre del 1953, Teresa Noce, nota anche come Estella, membro della direzione del Partito Comunista Italiano dal 1945, già attivissima nella resistenza francese, arrestata e deportata nei campi di concentramento di Ravensbrück e di Hohenlohe-Kahn, e moglie di Luigi Longo, scopre in questo trafiletto di aver divorziato. In piena buona fede scrive allora una lettera di smentita al giornale, dove dice che mai e poi mai l'onorevole Longo sarebbe stato tanto scorretto nei suoi confronti da non avvisarla neppure di una decisione di tal gravità, che mai e poi mai lei e suo marito, due comunisti, avrebbero neppure preso in considerazione l'ipotesi del divorzio. Beh, dal momento che a questo istituto il Partito Comunista Italiano si è dichiarato contrario già in sede di Assemblea Costituente. Che la notizia era dunque completamente priva di ogni fondamento, perché, come diceva lei in questa lettera, i comunisti non possono avere due politiche, una pubblica e una personale. Si sbagliava. Suo marito ce le aveva le due politiche. E trasferendo la propria residenza per un anno, facendo testimoniare che loro due erano stati obbligati a sposarsi dai genitori e riuscendo a far sì che lei non ricevesse mai le convocazioni del tribunale sammarinese, era riuscito ad ottenere per sé quel divorzio che aveva negato e continuava a negare ai propri compagni di partito e agli altri cittadini italiani. Non solo. Pochi mesi dopo, avendo mandato la smentita al quotidiano della borghesia, Estella fu espulsa dalla direzione del partito per aver disobbedito alla disciplina interna. E in chi racconta della doppiezza morale di persone rappresentative di una qualche idea, tuttavia spesso brulicano morbosi pensieri. Non si bada tanto a mettere in guardia dal caso singolo, ma si usa e si abusa del caso singolo per mettere in guardia da qualcos'altro che si dimostrerebbe come la fonte della sua corruzione, come se la pessima esecuzione potesse rendere pessimo anche lo spartito. Longo si contraddice come Longo e si contraddice anche come comunista, ma non si contraddice perché comunista. E non solo, spesso in chi specula sull'altrui doppiezza morale c'è il tentativo di screditare ogni possibile rapporto fra il singolo, sempre debole, sempre corruttibilissimo, e il quadro ideologico a cui questo singolo fa riferimento, come se la pessima esecuzione fosse l'esito scontato di uno spartito che comunque resta pessimo. Sulle pagine della Zona Milano 8, che è un periodico che accomuna 7 quartieri della città, leggo la bella storia di Lampo, ben raccontata da Sabrina Ghini. Mi tocca riassumervela un po' alla svelta. Allora, siamo ancora nel 1953, qualche mese prima che Longo divorziasse da Estella, insomma, e da un treno merci nella stazione di Campiglia Marittima vicino a Piombino salta giù Lampo. È un cane. E vabbè, solo come un cane, beve alla fontanella per poi presentarsi nell'ufficio di un ferroviere. Fanno amicizia e Lampo decide di fermarsi. Per un po' passa il tempo a studiare il passaggio dei treni o a dormicchiare sotto il calorifero. Poi un giorno il ferroviere decide di portarlo a casa sua a Piombino, giusto per presentargli sua moglie e la sua bambina. Si piacciono, ma durante la serata, come un ospite che non volesse dare troppo fastidio, no? Il cane durante la serata sparisce. Il mattino dopo, il ferroviere se lo ritrova a Campiglia. Lampo si era preso il suo treno ed era tornato alla base. Familiarità sì, ma anche indipendenza. Da quel giorno, tuttavia, qualcosa cambiò, perché Lampo imparò ad andare a Piombino all'uscita di scuola della bambina per riaccompagnarla a casa. Fu così per anni, tutti i giorni. Con qualche vacanzina che Lampo si concedeva ogni tanto, salendo su un treno o sull'altro e tornando regolarmente. Il finale è prima insopportabile e poi tragico. Qualche dirigente ferroviario reputò che un cane non poteva abitare in uno stanzino delle dignitarie ferrovie dello Stato e fece di tutto per allontanarlo, perfino a quanto sembra deportandolo al sud, a 1000 chilometri dalla sua stazione. Sua stazione cui, ovviamente, stanco e lacero, riuscì a tornare, compiendo un altro miracolo di fatica e di intelligenza e guadagnandosi finalmente maggior rispetto. Che durò fino ad un certo punto, perché il 22 luglio del 1961 Lampo fu trovato morto sui binari, travolto, tradito da quella strana forma di doppiezza morale che è pur sempre un treno fuori orario. Ancora oggi, a quanto pare, nella stazione di Campiglia sta un monumento a Lampo, cane ferroviere, rappresentato con un cappellino a visiera in testa, la paletta a lato e la zampetta destra alzata. Con il pugno chiuso, aggiungerei, se fossi certo che la si potesse sostituire a quella regalata dal comunista Visconti, che sta nel giardino di Zeffirelli.